è una cosa che è entrata, ha fatto entrare Trump, che già era dentro, perché è in giro dagli anni Ottanta a livello popolare, ma l'ha fatto proprio entrare nel radar mentale di chiunque, anche uno che non ha mai, ma non dico votato, ma non ha mai guardato la CNN. Quindi insomma ha catturato le persone che comunque noi diamo per scontato che il pubblico americano abbia delle categorie, appunto, ancora una volta, e che segua quello che che arriva anche a noi oltreoceano. Invece c'è tutto un mondo che noi non conosciamo. Comunque con il mondo dello spettacolo ha avuto a che fare anche in altri modi, la famosa puntata dei Simpson, certo, dove c'è addirittura una scena quasi identica a quello che poi è successo, poi si è stato dimostrato che in parte non è, però insomma era dentro lì, quindi è tutto anche spettacolo. Devo dire che, come diceva prima Mattia, il fatto che lo spettacolo si intrecci con la politica è valso anche spesso dall'altra parte, cioè Barack Obama comunque ha un modo di comunicare, di porsi. Michelle questa settimana che è stata al Carpool Karaoke. No Mattia, questo intreccio, ecco, questo forse è interessante. Noi italiani siamo molto schizzinosi di questo aspetto, gli americani come lo vivono? No, per gli americani c'è una naturalezza assoluta, per noi io trovo che sia, e lo guardiamo sempre con ironia, cioè come un doppio livello di lettura, cioè come se stessero un po' sempre recitando, fosse un po' anche una presa in giro tutta la messa in scena. Per gli americani è serissimo, ma l'America è un paese fondamentalmente cerimoniale, fondamentalmente imperniato su una liturgia pubblica del racconto di se stesso, del racconto del potere. Questo è, per loro è assolutamente, è dentro l'anima dell'America questa cosa qua, quindi sì. non è strano, però ti voglio lanciare un'altra cosa. Secondo me è interessante il modo di procedere di Trump rispetto alla questione dello spettacolo, per come preme a ondate. E Trump, cioè, uno scandalo e poi subito dopo un altro scandalo, una notizia che si mangia un'altra notizia, è come sempre un ciclo rapidissimo, cioè al ritmo un po' del reality show, ma secondo me anche il ritmo un po' della serie televisiva. Sì. Cioè siamo un po' come addestrati anche ad avere questo tipo di approccio a un racconto. Cioè c'è una puntata, ma poi ce n'è subito dopo un'altra, e poi un'altra, poi c'è un colpo di scena. E lui ha fatto questo, l'ha estremizzato in maniera pazzesca. Mentre Obama, secondo me, era più un romanzo, era più uno svolgimento, c'era più un'idea di una narrazione lunga che inizia, cioè ha un suo intreccio, poi si conclude, che era la storia della sua vita. E su questo è diverso, ritmo serratissimo, montaggio pazzesco, verissimo, adrenalina pura. Ed è il fronte su cui è più debole Hillary, mentre Bill forse era molto capace di imporre, come dire, un palinsesto della sua politica, una scena, come si chiamano quelli runner delle serie TV? Showrunner. Bill Clinton era un grande showrunner, probabilmente su questo fronte Hillary è più debole. Più debole, ma mettiamo anche che lei si è già raccontata, sì, infatti. Appunto, raccontarsi per la seconda volta dopo essere stata in giro per 25 anni, non è proprio semplice. E poi non ha, io trovo che la chiave di Bill fosse essere un uomo del sud. Mm-mm. Ed essere un uomo del sud vuol dire avere un certo rapporto con le persone, avere un'idea della comunità, suonare il sassofono, avere l'accento. E fermiamoci per altre cose, bravo, che non si possono dire perché siamo in fascia protetta. Bene sì. Va bene. Bene sì, ma ce le ricordiamo tutte. Mattia Ferraresi, autore di La febbre di Trump, edizioni Marsilio. Io me lo sono già comprato in ebook. Perché lei è digitale, io ce l'ho di carta. Sì, ci dividiamo le cose. Così facciamo così. Ciao così. Mattia. Grazie, buona Mattia. Filadelfia, perché grazie. La prossima settimana i democratici. Grazie, grazie. Ciao. Ciao Mattia, grazie. Ma che ce abbiamo meraviglia. Tempo per parlare anche un po' di politica italiana? No. Sì, ce l'abbiamo. Questa settimana è tornato un grandissimo citazionista, ne ha dette di ogni, una stupenda. Io fossi scritturerei, vuoi sentirla? Citazionista, un dadaista, un personaggio proprio, un gran bagai. Sentiamo. Quando ha detto la famosa frase Enrico stai serena, lui era intimamente e sinceramente tifoso del governo Letta, che avrebbe dovuto avere uno scatto che poi non ha avuto, e ha annunciato in un libro futuro che racconterà come è andata la storia. Attendiamo l'opera. Lo leggerà lei? Certo, io leggo i libri. Credo che sia contro la linea del partito leggere i libri, però io li leggo. Ragazzi, cioè, Massimo D'Alema, vabbè. Massimo, ma diamogli un talk show di terza serata, ma una cosa. No, ma qua siamo alla letteratura più pura. Ma come

sì, che in realtà poi la panchina lunga era una cosa anche degli anni precedenti, però ovviamente i ventenni di oggi non lo sanno che di panchina si parlava anche qualche tempo fa. Benching è un modo, insomma, un po' cafone per tenere una persona appesa senza che lei lo sappia, ed è effettivamente molto più cattivo, se ci pensi, del ghosting, perché almeno il ghosting, dopo un po' che quella persona scompariva, cioè ghosting sparire, se ne ciao, una ragione. Mentre invece col benching tu stai sempre lì, perché questa persona manda segnali contrastanti, ogni tanto ti manda un cuoricino, ogni tanto un messaggino, poi fa queste cose dove ti chiede di andare a pranzo e ti dà appuntamento a Como fra 15 minuti quando tu sei a Milano e non ce la farai mai, e lui sa che tu non ce la farai mai, però questo modo è un modo di tenerti appesa, benching. Però vedi, Costanza è molto più corretta di te, Marta, perché tu hai subito detto gli uomini che tengono la panchina, invece Costanza ha parlato di persona, perché sa benissimo che è un fenomeno. Anche le donne fanno benching. Vabbè. Costanza, noi ci divertiamo un sacco online, adesso che ci sentiamo anche su Telegram. Ecco, mettetemi anche nel gruppo, no, così solo qualcosa io e Costanza, imparo. Così io posso dire gli uomini senza che tu dica gli uomini, perché sono gli uomini che fanno benching. Non è vero. Guarda, ti porto, c'ho una panchina di donne che fa la stessa cosa. Che fanno panchine. Che fanno con, è tutto un gioco di panchine, il mondo è fatto di panchine. Grazie, ciao, a Costanza Rizza, Casa d'Orsogna. Ciao Costanza. Va bene, et Marta Cagnola, et Di Bellasio. E adesso una, non so, una pausa facciamo. Un traffico, ci ritroviamo tra poco. Traffico di panchine. YouTube. Le nostre azioni hanno delle conseguenze, che lo si voglia o no. Le decisioni, i procedimenti che avviamo hanno un peso. Venite al lavoro ogni giorno, continuate a perseguire i reati con forza e non vacillate. Avere successo adesso è diventato un crimine. Tutti hanno accesso alle informazioni, ma noi sappiamo come analizzarle meglio. Uno dei miei ragazzi ha notato un picco di diversi giorni nelle transazioni. Capita ogni giorno. Queste società sono collegate a Bobby Axelrod. Mosse dure, mosse pulite. Attenzione là fuori. Che cos'era, Daniele? Che cosa ci hai fatto sentire in quest'ultimo blocco? Allora, io in questo periodo sto facendo binge watching di Billions. Hai sentito parlare di Billions? Ah, ne ho sentito parlare, ma non l'ho ancora vista. Racconta. Mi prendi in giro. Allora, intanto c'è Paul Giamatti, che è bravissimo. Mi piace quando racconti le trame. Sì, come racconto le storielle. Allora, intanto c'è Paul Giamatti, che è bravissimo. Sai, Paul Giamatti credo abbia vinto anche un Oscar. Io lo adoro, un figo. Ha fatto Bernanke in un altro Paul Giamatti. In questo film fa un personaggio complicato, molto complicato. Fa un personaggio, fa un procuratore che vuole indagare tantissimo su un cattivo della finanza di Wall Street, che è un cattivo con degli elementi di fascino molto forti, tanto che la moglie del procuratore lavora, non sto spoilerando nulla, è proprio la trama quella basica, e la moglie del procuratore lavora per il cattivo di Wall Street, quindi c'è anche questione di conflitto di interessi. Sta finendo purtroppo questo martedì su Sky Atlantic HD, purtroppo quello che si dice finale di stagione, secondo ti compare finale di stagione e dici, si passa l'anno prossimo. A me piace molto perché non lo riesco a inquadrare, no? È difficile fare il tifo per qualcuno, non parteggi mai per uno, sono ben cadenzati i colpi di scena, non sono né troppi come in alcune serie TV recenti, né troppo distanti e quindi troppo lenti, c'è quella buona dose di malizia, di sesso, c'è anche sesso, sai? C'è sesso. Ci sono vari tipi di gusti. Ah, c'è variegato. Per esempio, i buoni, magari dietro la porta chiusa di casa, sono un po' più eccentrici, mentre i cattivi dentro la porta chiusa di casa sono molto più tradizionali. Quindi c'è tutta la complessità dello spirito umano. E poi si parla soprattutto di soldi. Ah, Billions. Girano delle cifre pazzesche, che non è che si porti molto bene in questo periodo di soldi. Perché tra il calciomercato, gli tutti i contratti, per esempio, tu sai che adesso c'è molto dibattito se A luglio c'è sempre come dibattito: è morale o è immorale pagare un calciatore? Beh, io devo dirti, non sono una che fa proprio, cioè mi rendo conto che il mercato è mercato, però certe cifre, fanno un po' ridere, cioè, mi fanno un po' impressione. Oppure dall'altra parte c'è chi dice no, perché i calciatori devono essere delle bandiere, no? Tu da romanista c'hai Francesco Totti, sì, che devo dire che anche una delle bandiere, forse una delle, cioè, che ha anche un minimo di etica, è rimasto una bandiera, ecco. Forse è rimasta delle bandiere, oddio, per giocare, mette i puntini sulle i per giocare, per essere presente, certo, c'è 40 anni, certo, c'è ancora il contratto. Anni è tutto. Per esempio, c'è una bandiera, tu devi sapere, conosci Higuain? Non è proprio una bandiera, però è il principale, il Pepi del Napoli. Sì, sì. Lo vuole la Juventus. Sì. Vedremo come andrà a finire. Ma intanto De Laurentiis, che sa usare le parole, no? Ha detto, vuoi sentire cosa ha detto? Cioè, mostriamola alla radio. Sentiamo cosa ha detto De Laurentiis di Higuain. È un tradimento a se stesso, perché uno non va sotto la curva che rappresenta da sempre i colori e l'anima di una squadra, poi figuriamoci a Napoli, non va a intonare nemmeno la canzone dell'innamoramento, e quindi sarebbe veramente un controsenso. Poi un controsenso tanto più che tutti sanno da sempre che Napoli e Juventus sono come cani e gatti. Quindi mi sembrerebbe veramente il re dell'assurdità, Higuain, se facesse una cosa del genere. Beh, in punta, capisci, di penna. Tradimento. Ma invece io, che sono un ascoltatore di Genta, che salutiamo. Sì, ciao Carlo. Molti tifosi del Napoli hanno interpretato questa dichiarazione come dire: vedi che già mette le mani avanti, perché in realtà è lui che lo vuole vendere, perché i billions sono billions, anche le squadre di calcio sono aziende. Quindi lui. Quindi lui dice: tradimento, la butta. Però poi se va via, insomma, anche il Napoli un po' ci guadagna, perché lui non è che dice sì datemi la grana, perché sennò la curva si arrabbia, capito? Quindi è tutto complicato, quando si parla di soldi in Italia bisogna sempre in qualche anche modo, anche quando si parla di calcio, sì, perché la quantità, e anche quando si parla di sesso, sono tre cose legate, bisogna sempre essere un po' ipocriti, non la si può mai dire vera totalmente. No, perché devi sapere che quando c'è tutti convocati, noi vediamo gli sms che arrivano, la quantità di messaggi che arrivano a tutti convocati non la batte nessuno, perché qualsiasi frase dicano diventa un dibattito, e poi dopo lì c'è l'interpretazione, tutti hanno una loro interpretazione, e fare il vigile, infatti non invidio Genta che deve fare il vigile tra le milioni di speculazioni. I conduttori sportivi vengono accusati di qualsiasi cosa, di parteggiare, perché sai, chiunque ha la sua opinione ed è difficilissimo. Cioè, chiunque poi legge le tue frasi come se... Interpreta, però anche nel mondo dello spettacolo, io lì ti voglio portare, perché tu ti devi esprimere, Qui abbiamo parlato di billions, no? Sì. Aerei privati, Trump, figurati, le torri, le cose, Mi esprimo. Allora, Piolo. Entriamo in atmosfera. Grande classico, Er Barcarolo va controcorrente. Sì, era Bonolis e Laurenti. Ho riconosciuto Laurenti. Grandissimo classico della musica italiana. Allora, cos'è successo questa settimana? Ecco. La premessa è: se esistono delle figure professionali nel mondo, è giusto che queste stesse figure professionali operino nel loro settore e facciano il loro lavoro. Mi riferisco in particolare al fatto che bisogna utilizzare gli uffici stampa e i social media manager, cioè le persone famose spesso usano i social network come se fossero persone normali, invece secondo me dovrebbero usarli con più attenzione. E quindi l'utilizzo di un ufficio stampa che medi le tue parole o di un social media manager che... Cioè che ti dica: occhio che se posti questo può succedere quest'altro. Esatto. Basta anche questo. Su una cosa assolutamente legittima. Per esempio, foto su Instagram di Paolo Bonolis, l'hanno vista tutti i nostri ascoltatori, con un amico che è anche una persona molto carina, che è il suo autore, Marco Salvati. Ciao Marco! Sono in aereo e vanno a Formentera. Piccolo problema, la foto, che è una foto di un gruppo di amici che va in vacanza, è stata scattata chiaramente a bordo di un aereo privato. Bonolis è ricco. Se lo può permettere. Sappiamo quali sono gli ingaggi porta la famiglia, porta gli amici, non ci dovrebbe stupire niente. E invece polemiche, perché ovviamente, sai, in questo periodo tutti sono sempre molto, sono sempre tutti tanto arrabbiati. Quindi, ecco Bonolis che... Ma... Quindi già l'immagine... La risposta di Sonia, la moglie di Bonolis, è stata forse un filino sopra le righe. Addirittura? Eh beh, perché allora il... No, anche con parole tue. No, trovale. Il riassunto, ecco, era un po'... Ti viene da ridere. A rosiconi. A rosiconi gli ha detto. Eh beh, però c'è del vero, eh. No, ma è verissimo. C'è del vero. È verissimo, nel senso che, cioè, francamente, allora, noi siamo ricchi, ci possiamo permettere di noleggiare, le ha detto, non è nostro il jet, e quindi ci spostiamo come vogliamo, ma sacrosanto, però forse il tono, tono un po' a rosiconi... Bisogna sui social trovare il modo di dire la stessa cosa, ma gentile. Esatto, ecco, ma non è facile a volte. Hai ragione, cioè, bisogna capire che se sei un personaggio pubblico, forse previeni le reazioni anche un po' astiose del pubblico e non ti metti in certe situazioni. Anche perché me... il pubblico lo apprezza moltissimo. Se tu sei garbato ma gentile, certo, cioè, non ma, certo. Gentile. Ma infatti è normalissimo. Cioè, allora dico una cosa, faccio un po' di autobiografia. Questa settimana io sono stata a un evento molto carino, mi sono divertita davvero tanto. Adesso siamo tutti sbilanciati a sinistra in questa puntata, la prossima volta staremo un po' di più a destra, perché ero alla festa del PD a Prato. Ho intervistato in un evento molto carino Carlo Conti e Linus. E io però mi sono... Siccome siamo andati a cena prima, e ho visto la popolarità di Carlo Conti e di Linus e mi sono detta, certo che essere popolari è pesantissimo. Guarda, però io quasi il sacrificio. No. Se proprio mi devo... Cioè, se proprio mi... Fatemi popolare, io poi lo sopporto. Che non lo so. Ma Marta, ma tu sei già popolarissima. Ma come dice un mio amico, ma noi della radio di faccia nessuno ci capisce, quindi noi andiamo questa tranquilli. Questa la capisco. Nessuno ci riconosce di faccia, quindi noi siamo sereni. Ma riconoscono la voce. Vabbè, dai. Però se tu pensi al povero Carlo Conti che non riesce a entrare in un ristorante senza che lo riconoscano, tanto che, e questa so che Linus l'ha raccontata a Radio DJ, ma c'ero anch'io, la cameriera l'ha guardato, emozionata, gli ha detto, ma lei è... Paolo Bonolis! No, peggio, no. Christian De Sica. No, ma no, ma non è possibile. È stato bellissimo. Perché... E salutiamo Christian. È stato molto bello, ci siamo divertiti tantissimo, e lo stesso Carlo Conti. A me invece, davvero, quando mi incontro, mi dico, ma lei è quello che lavora con Marta Cagnola. L'ho riconosciuta dalla voce. L'ho riconosciuta dalla Marta Cagnola. Penultima puntata. L'ultima tempo sarà volato. Proprio esplosiva, proprio state lì. Durante la pausa 15... Daniele Bellasio mi diceva, chi invitiamo chi per invitiamo l'ultima puntata? Amici, e io ho detto, ma nemici. Chi viene in diretta il sabato pomeriggio, il 29 di luglio? Vabbè, pensate che tu devi pensare anche qualcuno dalle 15, perché c'è dalle 15 del sabato ebbene del villaggio. Sì, ebbene sì. Dalle 17 lo roviniamo con RadioTube. Grazie a Roberta Frisani in regia, grazie a Cristian Goldoni Forza in redazione. Per lui, per lui. E ci ritroviamo sabato prossimo. Ciao!